Tá, cama na barba, mané, mas não mais portava gaça, vídeo, já só chega, mano. Tu já cangou, agora se venha. La guerra fra le galassie è giunta al termine. La popolazione umana conta 2 milioni di persone minacciate dalle epidemie batteriche. Dall'orbita di un meteorite gigantesco in rotta per la collisione. Dall'astronave madre le sagome degli dèi osservano un pianeta che inesorabilmente decade. Masse schiavizzate che fluttuano verso l'Ade. La desertificazione travalica i Pirenei. Fra le macerie di antiche città terrestri si annidano schiere di superstiti che tramandano le cronache di un'epoca su incisioni rupestri, annunciando i posti di un destino dai tratti funesti. Qui un regime dittatoriale interplanetario schiaccia le forme di vita, prolifera autoritario. La legge del terrore muove i fili di un sistema ormai ridotto a una cancrena che stremata giace in un ossario. Stirpe miserabile ed effimera, figlia del caso e della pena, tu considera il tuo ruolo di pedina. Il fuoco del progresso che si assidera dinanzi a forze maggiori dalle quali tutto si origina. Stirpe miserabile ed effimera, figlia del caso e della pena, tu considera il tuo ruolo di pedina. Il fuoco del progresso che si assidera dinanzi a forze maggiori dalle quali tutto si origina. Una tempesta magnetica artificiale manda in tilt androidi che impazziti annientano ciò che di umano resta. Piogge di frammenti di asteroidi si riversano su mutanti antropomorfi orripilanti dagli occhi insettoidi. Nei laboratori fiale di liquido amniotico coltivano embrioni con il nuovo genoma perfetto. Protetica meccanica, encefalo bionico, genesi di una razza che nasce in assetto bellico. Ogni forma di resistenza desiste. Comando armati di cyborg intercettano i camion delle provviste. Reticolati laser su ogni base missilistica. Tutto regredisce a parte l'arte balistica. Radioattività impregna il genoma autoctono. È il crepuscolo degli idoli, martiri del complotto. La storia si propaga in andamento ciclico, spalancando le porte verso un nuovo mesolitico. Stirpe miserabile ed effimera, figlia del caso e della pena, tu considera il tuo ruolo di pedina. Il fuoco del progresso che si assidera dinanzi a forze maggiori dalle quali tutto si origina.